24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Buongiorno cari ascoltatori, inizia una settimana di 24 mattino, sono le 6:34 minuti. Abbiamo scoperto che in realtà il tacchino era un piccione, questo ci ha detto Pierluigi Bersani, ma insomma tacchini o piccioni o passerotti in mano, eccoci qua, pronti per una nuova settimana con Miriam Lucchetti in redazione e il nostro alpino Peter Bescapè in regia, già lì dall'altra parte del vetro, pronti ad ascoltare il consiglione. But please relax. È quello solito del Presidente del Consiglio. Allora, siamo pronti per aprire il nostro bar condicio. Qui la Serranda si alza e la Minetti offre. La Minetti. Avete finito di rompere le palle con la Minetti. E la Minetti, sempre la Minetti. Non sapete parlare d'altro. Andate a lavorare, pelandroni. Vabbè, andremo a lavorare, per il momento è sempre così. Nicole Minetti che offre il caffè e come il lunedì offre il caffè a Bimbo Alieno, che saluto, il nostro blogger economico. Buongiorno. Ma buongiorno Bimbo, a tutti. Bimbo Alieno che lavoro fa? Molti mi chiedono, ma che cosa fa nella vita? Fa Bimbo Alieno, mi sembra un po' improbabile, insomma, cosa fa nella vita Bimbo Alieno? Vogliamo dire qualcosa? Cerco di aiutare le persone che hanno dei risparmi da investire, da sistemare, sì. Cerco di aiutarli a farlo secondo le loro esigenze. Ah, vabbè. Portafoglio clienti, insomma, gestisce dei soldi. Ah, eccolo lì. Gestisco patrimoni. Gestisce patrimoni, eccolo lì, col suo blog Bimbo Alieno. Allora, intanto invece abbiamo. Cos'è? È caduto. Non abbiamo neanche salutato Forchielli, non lo so. Ha sentito la Minetti, se n'è andato via. Sta in Cina. Sarà lo smog, Bimbo Alieno. Sarà lo smog di Pechino che gli ha obnubilato la mente, non lo so. La settimana scorsa ha detto che c'era una nebbia che non vedeva dalla camera al bagno. No, a dire la verità ha detto dalla camera all'altra parte della strada, ma al bagno l'ho preso in giro io, però c'è uno smog incredibile. Ma l'abbiamo recuperato forse. Alberto Forchielli, buongiorno, è comoda. Sono qua, salve, buongiorno. Pensavamo con Bimbo Alieno che fosse lo smog ad avere obnubilato tutte le linee telefoniche. Come va smog a Pechino? No, sì, si è alzato il vento e si è un po'. Adesso c'è un leggero sole. Il problema è che quando non tira il vento diventa insopportabile. Lo smog, sì. No, ma adesso noi scherziamo, ma è un problema veramente serio lì. Riesce a vedere dall'altra parte della strada stavolta? Si riesce a vedere? Sì, no, ma il problema è agghiattante. Perché non si vive, è terribile, facilmente devono fare ancora un sacco di macchine, ne stanno producendo 16 milioni all'anno. Ah, cioè lì non gliene frega niente, cioè non è che fanno, targhe alterne a Pechino, o piuttosto che... No, a Pechino hanno già bloccato la circolazione, ossia per comprare l'automobile bisogna avere un... bisogna comprare una licenza addizionale, un bollo insomma, anche abbastanza caro, altrimenti uno non può circolare. Però tutto il paese, tra le centrali e carbone, per questa crescita qui, ogni 8-9% di crescita del PIL è un disastro. È certo, lì lo smog aumenta. È tutto carbone. Senta, Forchielli, le auto arriveranno a farne, hanno capacità per 40 milioni, ne fanno solamente 16. Vabbè, qualcuno non sarà accontentato. Il problema è serio. Uno dei problemi che vedo per la Cina che si gasino tutti, si autogasino tutti. Addirittura. No? Senta, Forchielli, voglio farle sentire un audio in inglese, a lei, bimbaliere, il nostro ascoltatore, l'abbiamo scoperto e scovato dalla NBC. Le devo fare un quiz, voglio che lei senta questa voce in inglese per metterla di buon umore in questa giornata a Pechino e per capire di chi si tratta. Sentiamo poi, se qualcuno capisce l'inglese, lo capisce, se no lo traduciamo dopo. Sentiamo, eh. No one can ever imagine the pain that you may experience. If you say just simply sorry, sorry is not that you have a car accident and you say sorry. I'm not blaming nobody. I'm clear with my conscience. Something. Allora, nessuno può immaginare il dolore che si prova. Non è che uno fa un incidente di macchina e dice sorry, sorry, e poi quella frase I'm clear with my conscience, sono a posto con la mia coscienza. Chi è Forchielli, secondo lei? Chi è Forchielli? A me mi sembra tanto Romano Prodi. Romano Prodi. È Schettino! È Schettino! È Schettino! Cazzo, È Schettino! Eccolo lì! Schettino, il comandante! I'm clear with my conscience! Facciamolo risentire, per favore. Sentite l'inglese, sentite. Bimbo alieno, senti, eh. You may experience. If you say just simply sorry, sorry is not that you have a car accident and you say sorry. I'm not blaming nobody. I'm clear with my conscience. Eccolo là, I'm clear with my conscience. E poi spiega tecnicamente la roccia stava lì, ma l'acqua era più bassa di quello che era segnato sulle carte nautiche. Forchielli, sono a posto con la mia coscienza. In teoria il livello delle acque con il global warming si dovrebbe alzare, non abbassare. Però è un cretino, capito? Addirittura. In teoria, al giorno d'oggi, con lo scioglimento dei ghiacci, il livello delle acque si alza, non si abbassa. Non è possibile che l'acqua sia più bassa di quello che era. Infatti lui pensava che fosse più alta. Invece le carte nautiche gli ci ha segnato diverso. Vabbè, ma comunque, a parte questo, Bimbo Alieno, volevo chiedere qualcosa sulla campagna elettorale. Ora arrivano le grandi riforme di Monti, così dice Mario Monti. Però il Financial Times ha scritto ieri che non è l'uomo giusto per guidare l'Italia. È un duro attacco del Financial Times. Ha scritto: è l'uomo che ha fatto le riforme che sono state però annacquate e alla fine si è ridotto ad alzare le tasse. Allora, come la mettiamo qui? A parte che noi siamo sempre sensibili ai giudizi degli esterni, dobbiamo credere ai giudizi dei mercati, del Financial Times, di questi giornali internazionali, per carità, importanti? Beh, diciamo che senz'altro, voglio dire, dopo aver detto per mesi che era l'uomo dei poteri forti, gradito dall'establishment mitteleuropeo, anglosassone, delle banche, della finanza, eccetera, insomma, fa specie vedere il Financial Times esprimersi come si espresse, o perlomeno similmente come si espresse l'Economist su Berlusconi a suo tempo, no? Sì, unfit, quando dice unfit to, no? Esatto. Per guidare l'Italia. Effettivamente sì, non so, Forchielli, a livello internazionale, questa del Financial Times forse se l'è persa. Lei che aveva detto l'altra volta: io non voterò, ma voterei Monti. No, primo, questo fa tutta parte di del gioco europeo della Gran Bretagna, perché ormai la Gran Bretagna è il limite di uscire dall'Europa. E quindi è un modo per, e Monti potrebbe essere un candidato a sostituire Van Rompuy, presidente della commissione. Quindi è un gioco così di potere. Gli inglesi che mettono le mani avanti sulla non candidatura di Monti, che è strano, perché gli inglesi, lui ha fatto moltissimo per riportarli in Inghilterra dentro l'Unione. La seconda cosa, credo che non vada bene agli inglesi, è questo supporto del Vaticano. Capito che poi c'è un terzo fatto, secondo me, che sta venendo alla luce: questa riforma del lavoro è stata tutta una taroccatura. capito? Cioè una taroccatura in che senso? Ma guarda che lo stanno forse cambiando. Oggi noi avremo alle 8.30 Pietro Ichino, ospite, candidato con Monti. Con lui ci sarà anche Oscar Giannino, che torna a Radio 24 per la prima volta, in questo caso in veste di leader, di fermare il declino. E Ichino vuole cambiare il mercato del lavoro. Perché? Che cosa è una taroccatura, Forchielli, di questa riforma del mercato del lavoro, secondo lei? Ma guardi, in realtà non cambia niente. Cioè, in realtà c'è una non riforma. Sì, no, sì, le riforme devono essere drammaticamente più radicali, perché in Italia la gente ha perso il senso del lavoro. Ossia, uno è una cosa di cui non ci rendiamo conto noi stessi perché non andiamo fuori, che più tu arrivi un quarto d'ora in ritardo perché sei quarto d'ora accademico, poi c'è la pausa caffè, la pausa sigaretta, la pausa di qua, quattro Facebook, alla fine la gente non fa un cazzo, capito? Cioè, proprio, è una roba bestiale. Cioè, non si, eccolo qua, l'Italia, ecco, c'è di dominio, di controllo sulla forza lavoro. Bimbo alieno, di qualcosa, è ripartito Forchielli a dire che non facciamo niente in Italia. Cosa hanno fatto? Hanno fatto l'articolo 18, la possibilità di licenziamento per ragioni economiche, mi viene da ridere. Insomma, si è sempre potuto fare. Poi hanno fatto che il contratto a tempo determinato, niente, non ci sente, è dalla Cina, non ci sente. Automaticamente. Forchielli, si ferma. Si fermi dalla Cina, no? Bimbo alieno, dici di qualcosa, perché qua inizia a dire adesso che non lavoriamo, che noi italiani siamo dei pelandroni. Su una cosa è vera, sul lato lavoro, voglio dire, la riforma che è stata fatta non va ad agevolare minimamente le piccole imprese, non va a toccare minimamente la grande voce dei dipendenti pubblici, ha soltanto dato, come dire, ulteriori facilitazioni alle grandi imprese private, per cui onestamente non è questo genere di riforma del lavoro che ci permette di rivedere, ma infatti è per quello che in modo colorito stava raccontando che Forchielli raccontava come sempre col suo modo. Insomma, Forchielli, siamo, lo dica, non lavoriamo, non facciamo niente in Italia. Ma ci mangiano vivi, capito? Ossia, qui ci sono 3 milioni di persone che ci mangiano vivi. Ho capito, capito? Ma non è che si può. Lavorano di più, sono più disciplinati, ma come facciamo? Gli americani hanno scoperto di avere più gas e petrolio dell'Arabia Saudita e noi stiamo lì in mezzo come 3 cretini a far cosa? A fare che? Devo andare in giro schiettino a salutare Amalfi. Lasci stare. I'm clear with my conscience. Devo lavorare per vivere. Eccolo lì. Gli italiani non lavorano. Le risorse, il lavoro. Ci assubisseranno come al solito di telefonate alla nostra segreteria, che ascolteremo tra poco rientrando, e poi vi daremo anche il numero per la segreteria. Subito contro Forchielli, che dice che non lavorate, razza di pelandroni. 24 mattino. Italiani, qualcuno ha detto che deve pagare 200.000 euro al giorno. Se credete che li diano a voi, allora votatelo! Mi chiamo Alessandra, telefono da Roma e non sono arrabbiata. Sono molto perplessa. Io vorrei solo capire perché gli schieramenti di sinistra odiano Berlusconi. Perché come Berlusconi e peggio di Berlusconi ce ne sono tanti altri, anche a sinistra, anche se non hanno gli stessi difetti, gli stessi peccati, se non vanno con le ragazzine, fanno altro, o rubano, oppure sono dei sepolcri imbiancati, oppure sono semplicemente ipocriti, ma difetti ce ne sono da tutte le parti. Ma come è odiato Berlusconi, è una cosa che io non riesco a capire. È solo un problema di invidia per la ricchezza di quest'uomo? Io vorrei capire il perché. Grazie. Anche i giornalisti a casa. Lo so, Alessandro, perché in Argentina adesso è pieno di corrotte. Lo sai perché? Perché siamo tutti figli di italiani, Alessandro! Allora, la nostra segreteria, se volete poi vi daremo il numero, c'è anche lo spot. Comunque 0246524492, se volete mandare messaggi in segreteria, poi dopo lo sentiremo. Allora, visto che stiamo parlando un po' di lavoro, forse questa è musica per le orecchie di Alberto Forchielli, vorrei farle sentire Beppe Grillo che sta girando col suo Tsunami Tour. Sentite Beppe Grillo sui sindacati, no? Ha suscitato polemiche nei giorni scorsi. Elimina i sindacati, per esempio, che sono una struttura vecchia, sono una struttura politica, con i capi come i partiti politici. Non c'è più bisogno del sindacato, perché le aziende devono tornare a essere di proprietà di chi ci lavora. Allora, Forchielli, dovremmo addirittura eliminare i sindacati che hanno subito tuonato contro il fascismo di Beppe Grillo? Beh, sì, no, questo sindacato qui, la struttura attuale sindacale ci riporta al Medioevo, cioè un grande freno allo sviluppo del paese. Però andrebbero eliminati, Beppe Grillo dice via, eliminarli, via. Sì, voglio dire, devono assumere un ruolo completamente diverso, è una struttura dirigente incapace perché è cresciuto in un certo modo, per cui ovviamente i lavoratori devono essere rappresentati, ma non così, non vanno estinti. Gli attuali dirigenti sindacali hanno i pensionati come maggiori iscritti, perché loro finiranno come la Chiesa Cattolica, finirà senza preti. E i sindacati finiranno senza lavoratori, capito? Perché il loro compito, loro alla addirittura fine estingueranno la professione. Ma che poi cosa vuol dire, bimbolino? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Sono fatti così, per cui eliminare e ripare va bene, ma questa struttura non esiste. Questa bomba mentale non esiste. Bimbolino, fai qualcosa tu. Fai qualcosa anche tu. No, va bene. Un attimo, Forchielli, si fermi. Allora, cosa vuol dire poi? Finché dice eliminare i sindacati o cambiare i sindacati, questo lo capisco anch'io. Bimbolino, quando dice Beppe Grillo le aziende tornino ai lavoratori, le aziende sono di chi ci lavora, tecnicamente cosa vuol dire come concetto? Ma sembrerebbe suggerire un discorso cooperativo dove i lavoratori sono azionisti e quindi condividono con l'azienda, o meglio condividono con i proprietari dell'azienda i benefici oltre che i problemi, perché ovviamente benefici e problemi, no? Rendetevi conto che c'è la crisi, mi dispiace, eccetera eccetera. Invece, come dire, siccome poi insomma di regola ci sono le fasi anche positive dove invece di solito gli utili restano privatizzati, non si socializzano, allora probabilmente il discorso di Grillo è orientato a dire, come dire, a impostare un clima cooperativistico. Quindi sì, ma io credo che poi Beppe Grillo la crisi e no, poi dopo però no, ma è chiaro, poi Beppe Grillo facendo una campagna denominata Tsunami Tour vuol fare un po' come uno tsunami, cioè vuole proprio, no, scioccare anche con dichiarazioni, vuole un po' dimostrare che questo Stato è da riformare un po' dalle fondamenta, almeno su questo, Forchielli, da riformare nelle fondamenta, lei sarà d'accordo? Tanto lei è quello che dice. Siamo feccia. Ha perso la speranza, eccolo là. Non ci credo che vedremo un'Italia migliore, io non riuscirò mai a vederla, però è tutto sbagliato. Allora vi voglio... Questo è un paese dove c'è un eccesso, capito? Chi conta e chi vota sono i pensionati e i dipendenti pubblici. Quel voto lì, pensionati e dipendenti pubblici, e sono quelli dei sindacati. Vi voglio far ascoltare Le Lacrime di Monti. Voi pensereste mai, Forchielli, penserebbe mai lei che Monti si possa commuovere, Forchielli? Si è commosso ieri a Bergamo. Sotto questo aspetto ha più cuore di Draghi. Lui ha più cuore di Draghi, no? Perché tutte le lacrime della Fornero. Sentite Mario Monti che parla dei nipotini, dei quattro nipotini, poi il quinto nipotino. Con loro. Sentite, ma credo che avrei fatto loro torto, così come i nipotini. Nipoti di tanti altri. Cioè, un po' la voce rotta dal pianto, Forchielli ha parlato dei nipotini, C'è quello che lo chiama nonno spread, si ricorda che c'è quello che ha l'asilo, lo chiama spread. Nonno, è vero, no? L'ha detta Monti, mio nipote mi chiama nonno spread quando mi vede, anche all'asilo dice, a 4 anni dice nonno spread. Sei un pochino commosso, vabbè, così sono cose che capitano. Allora vi faccio sentire in chiusura anche la lite tra Ingroia e Alessandro Sallusti. Ingroia candidato e Alessandro Sallusti direttore del giornale, che gli dice in pratica lei non si può candidare a Palermo perché fino a poco tempo fa ha fatto indagini a Palermo. Sentite come è finita, poi Sallusti gli dà del mascalzone. Il direttore Ingroia ha svolto degli atti nelle sue funzioni negli ultimi 6 mesi che lo rendono incompatibile con una candidatura in Sicilia. No. Parlo dell'intervento. Senta, posso farle una domanda? Non è incompatibile. Non è incompatibile. Non è incompatibile. Ineleggibile forse. Non è, no, è ineleggibile. Lei è ineleggibile. Forse, lei se fosse coerente con la sua rigore, sì, lei è ineleggibile, dottore. Senta, a Palermo. Lei è a Palermo. E perché si candida a Palermo? Perché mi pare importante. Essendo capolista. Perché è un mascalzone. Allora lei. Guarda che mascalzone, e vabbè, è qua. Perché lei è ineleggibile? Perché ha un mascalzone. A un certo punto Ingroia ha perso anche lui le staffe, gli ha urlato dietro a Sallusti. E vabbè, manca un mese alle elezioni, poco più di un mese. Tenete duro, cari italiani. Vi ringrazio sia Alberto Forchielli sia Bimbo Alieno per essere stati con noi. Vi lascio, prendete carta e penna, c'è il numero della nostra segreteria telefonica e ci ritroviamo dopo il giornale radio delle 7. No one can ever imagine the pain that you may experience. You should say just simply sorry. Sorry is not that you have a character. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:20 minuti, pronti allora a leggere i giornali in edicola. E ricordo gli ospiti di oggi: alle 8:15 avremo l'ex governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo. Perché? Perché si candida. Ebbene sì, aveva detto mi dedicherò alle arance e invece torna in politica, si candida alle prossime elezioni. Oggi tra l'altro è il giorno in cui si completeranno le liste entro le 20. E poi avremo ospiti alle 8:30 per parlare di economia e lavoro il senatore Pietro Ichino, che è fuoriuscito dalla legislatura del PD, ora si candida con Monti. Insieme a lui torna in qualche modo Radio 24 in qualità di leader di Fermare il Declino, Oscar Giannino, con noi dalle 8:30 insieme a Pietro Ichino. Questi gli ospiti, ora andiamo a leggere i giornali. In questo lunedì 21 gennaio, intanto le aperture, il Sole 24 Ore si dedica sul redditometro, le mosse antipanico, questo è il titolo che trovate in prima pagina. Corriere della Sera invece, la sfida nelle regioni chiave, è un sondaggio sulle 5 regioni dove si decide il Senato. Repubblica, PDL, rissa sulle candidature. Per la Stampa, Monti sfida destra e sinistra. Il Giornale invece attacca quelli che sono, per il quotidiano, i bluff del governo, tecnicamente incapaci, e ci sono le foto di Monti, Fornero, Passera e Terzi, ministro degli esteri. Il Messaggero, redditometro, pensionati esclusi. Per l'Unità invece, liste pulite, panico nel PDL. Mentre il Fatto Quotidiano, l'edizione del lunedì, si dedica in un numero monografico praticamente sui derivati, la grande abbuffata delle banche, sono la vicenda dei derivati sottoscritti da vari enti locali che ora creano problemi finanziari a molti. Allora, voglio iniziare però dal racconto di un funerale. Può un funerale suscitare polemiche che si trascinano da 3 giorni e ora sfociano anche con polemiche politiche sui giornali? Sì, quando è il funerale dell'ex brigatista Prospero Gallinari, che è morto la settimana scorsa, è stato sepolto sabato. E perché c'è questa polemica? Perché ai funerali di Prospero Gallinari, uno del comando di Via Fani che sequestrò Aldo Moro, erano presenti anche due esponenti locali di Rifondazione Comunista. Politici di Rifondazione ai funerali di Gallinari, l'IDV dice alleanza a rischio. Questo è il titolo, per esempio, del Corriere della Sera, pagina 14. Racconta il Corriere: Alberto Ferrigno è sbalordito, non ci posso credere, non capisco, conosco la sua compagna, sono passato dalla Camera Ardente e nulla più. Claudio Grassi, sono questi i nomi dei due esponenti di Rifondazione Comunista, Alberto Ferrigno e Claudio Grassi, che invece è sferzante, non credevo che partecipare al funerale di una persona che conoscevo potesse creare un caso politico. Il caso politico l'ha creato Liana Barbati, dell'Italia dei Valori, di Reggio Emilia, irremovibile, e che dice: o mi danno una spiegazione civile e prendono ufficialmente la distanza da quel mondo, oppure io faccio un passo indietro e mi tolgo da questa alleanza. Dunque, ricapitolando, Ferrigno e Grassi, il primo è coordinatore per la provincia di Reggio Emilia, il secondo membro della direzione nazionale di Rifondazione Comunista ed ex senatore, sabato pomeriggio erano tra il migliaio di persone che hanno seguito i funerali del brigatista Prospero Gallinari. L'esponente dell'Italia dei Valori dice: ma come? Ci sono due persone che vedo tutte le settimane al comitato elettorale, poi all'improvviso le vedo ai funerali di un brigatista? Ma dico io, se proprio avevano motivi personali per fargli un saluto, potevano andare al cimitero dopo. Mi spiace, ma sono una politica anomala, non so lasciar correre, mi sono fatta il culo con battaglie e battaglie, con banchetti in tutte le piazze, qualche volta mi è andato dell'estremista, dell'irragionevole, e come faccio ora a dire ai miei ragazzi del partito che andare al funerale di un brigatista e quindi fargli omaggio di una presenza è una cosa che non si può fare? Così, insomma, l'esponente dell'Italia dei Valori. Per il momento Antonio Di Pietro, leader dell'Italia dei Valori, silenzioso, ma certo la polemica è un po' su tutti i giornali. Viene intervistato dal Corriere della Sera, da Daria Gorodischi, anche Paolo Ferrero, il leader di Rifondazione, che dice: non si fa polemica, è un gesto di umanità. Per me è molto semplice, si tratta di una questione personale, un fatto di umanità. Non so proprio cosa abbiano pensato, spero sia tutto frutto di un equivoco questa vicenda. La nostra condanna al terrorismo è nettissima. Claudio Grassi ha sempre fatto scelte totalmente diverse da quelle di Gallinari, si è iscritto al Partito Comunista da ragazzo, ha continuato su quella strada, la sua storia e quella di Gallinari sono antitetiche. Con una persona si può combattere tutta la vita, però poi quando muore è umano andare al suo funerale. Dunque Paolo Ferrero difende questo gesto di umanità. Ci sono le interviste ai parenti delle vittime, per esempio sempre il Corriere con Marco Imarisio intervista Andrea Casalegno, ex giornalista del Sole 24 Ore per tanti anni e figlio di Carlo, il vice direttore della Stampa, ucciso dalle Brigate Rosse nel 77, che dice: quei pugni chiusi ai funerali segnano la loro sconfitta, ma in realtà è una prova di democrazia il fatto che ci sia stato questo funerale, visto che, dice Casalegno, un regime avrebbe impedito il funerale, i cori, gli striscioni, la nostalgia online per quell'epoca di sangue. Invece è stata una dimostrazione del loro grande errore. I terroristi combattevano contro uno Stato che, dopo aver vinto, gli permette di onorare i loro morti come vogliono e dicendo quello che vogliono. Così anche su il Quotidiano Nazionale. I 1000 nostalgici al funerale dei BR, bufera sul candidato di Ingroia, un ex senatore di Rifondazione tra ex terroristi. Anche per il Messaggero, addio a Gallinari, la bufera su Rifondazione per la presenza appunto di soprattutto Claudio Grassi, che si difende così: è stato un atto di umanità. Vabbè, questo trovate come polemica sui giornali. Altra polemica invece per gettarci nella politica. E mi raccomando, visto che soprattutto è lunedì, mani ben salde sul volante. La scrive Sergio Rizzo sul Corriere della Sera: finanziamenti ai partiti. Allora, dopo tutte le polemiche che ci sono state, dopo tutti i finanziamenti delle regioni con gli scandali che sono emersi, dopo la questione del finanziamento ai partiti che dovrebbe essere zero secondo un vecchio referendum, ma sappiamo che sono rientrati dalla finestra quelli che gli italiani hanno cacciato dalla porta del finanziamento ai partiti. Dopo tutte le polemiche, dopo i faremo, prometteremo, voi vi immaginavate magari che tutto sarebbe stato online, disponibile, cliccabile, con un clic a disposizione? Per esempio, chi paga le spese dei candidati di questa campagna elettorale? Sergio Rizzo sul Corriere della Sera scrive: in una campagna elettorale nella quale poco o nessuno spazio hanno i contenuti, apro parentesi io, nessuno finora, chiusa parentesi, rispetto a chiacchiere di tattiche e alleanze, c'è un altro latitante speciale, le spese dei partiti. Anche se dopo quanto è accaduto, dalla storia dei rimborsi elettorali della Margherita, gli spericolati investimenti dell'ex tesoriere della Lega Nord, fino agli scandali che hanno travolto i gruppi del Consiglio regionale del Lazio, sarebbe stato lecito attendersi un cambio di passo. E invece, scrive Rizzo, l'articolo poi continua a pagina 7, scandali inutili, le spese dei partiti restano top secret. Ebbene sì, top secret esiste, è vero. Scrive Rizzo, l'obbligo di comunicare tutto alla Camera, dove poi i finanziamenti ai partiti in campagna elettorale diventano di dominio pubblico, ma bisogna accedervi con una procedura complessa che prevede la presentazione agli uffici e di persona di una domanda scritta. Avete capito, cari italiani? Andate voi alla Camera di persona a fare una domanda scritta per ottenere la risposta di quanto hanno finanziato i vari partiti, le persone o le società o i finanziatori in questa campagna elettorale. Ecco, questa è la procedura. Invece di mettere tutto, come scrive Sergio Rizzo online, il budget e l'indicazione dei finanziatori sono i grandi assenti della campagna elettorale, non si sa nulla, dati disponibili soltanto a consuntivo. Nel 2008 gli investimenti furono tantissimi, sono esplosi, in 12 anni i contributi pubblici sono più che decuplicati, ma non si sa nulla, tutto top secret, a meno che non prendiate le vostre gambucce, andiate alla Camera a fare una vostra richiesta personale scritta, altrimenti non si sa assolutamente nulla. Questo nell'era della tecnologia e della trasparenza. Ci fermiamo 5 minuti, rientriamo dopo la pubblicità al meteo. Uno monocromatico, uno a colori, uno per digitalizzare i documenti, uno per il workflow aziendale. Signorina, dai numeri? No, direttore, sto scegliendo tra gli 11 modelli della nuova gamma di multifunzione Kyocera. Task Alpha 3050C e Task Alpha 4500i. 11? E quanto mi costano? Non li deve prendere tutti. Ce n'è uno per ogni esigenza. Sono affidabili, ecologici e con il timer settimanale. Ma allora Kyocera conviene. Ci può contare. Kyocera, count on us. Trovi i rivenditori Kyocera su kyocera-document-solutions.it. Kyocera Document Solutions Corporation. Hai capito che succede? No. Succede che con Opel GPL Tech oggi tagli tasso e costo carburante, hai un finanziamento a tasso zero e fai un pieno da soli 26 euro. Fatti bene i conti. Tagli e ci guadagni. La nuova gamma Opel GPL Tech da 99 euro al mese, oggi a tasso zero. Ma succede solo nella pubblicità? No. Qualità Opel, approvata dalla Vita Vera, sabato e domenica. Tag 257. Scopri di più su opel.it. Irresistibile! Imperdibile! Formidabile! Ancora di più! È Stracciaprezzi! La strabiliante offerta dei negozi Expert! Come lo smartphone Samsung Galaxy Next Turbo, Android, touchscreen, GPS integrato, che costa solo 109 euro. Expert. Gli esperti siamo noi. Offerta valida nei punti vendita aderenti. Straccia prezzi, roba da non crederci. 1 milione di euro per un macchinario in Cina. 100.000 euro per lo smobilizzo di crediti. 500.000 euro di investimenti in Brasile. Puntate sulla crescita del vostro business. Affidatevi al gruppo SACE. Noi ci occupiamo dei rischi. Voi cogliete le opportunità. Come? Con assicurazione del credito, garanzie su finanziamenti, protezione degli investimenti, cauzioni, factoring. E oggi con PMI No Stop, sconti e agevolazioni anticrisi per le piccole e medie imprese. Scoprite i dettagli dell'offerta su sace.it. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona giornata agli ascoltatori di Radio 24. Ebbene, la perturbazione responsabile nel fine settimana di forti condizioni di maltempo sul nostro paese si allontanerà nel corso della giornata di oggi in direzione dei Balcani, favorendo così un graduale miglioramento del tempo, soprattutto in termini di fenomeni che tenderanno ad attenuarsi. Avremo infatti delle piogge sparse al centro-sud, ancora intensi questi fenomeni potranno essere tra la Campania, la Calabria e la Puglia meridionale. Al nord i fenomeni si attenueranno con le ultime nevicate sulle Alpi orientali e qualche pioggia in Venezia Giulia. Puglia, avremo invece delle ampie schiarite al nord-ovest. La settimana poi sarà ancora caratterizzata da una forte dinamicità sul nostro paese, quindi con ancora l'arrivo di numerose perturbazioni. Per maggiori dettagli consultare il sito meteo.it. E con questo è tutto. Risponde Inail per voi. Ho letto che Inail riconosce uno sconto sul premio assicurativo alle aziende che realizzano interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro. Di che cosa si tratta? Quali sono i requisiti e i termini per richiedere lo sconto per prevenzione? Dove posso trovare tutte le informazioni e il modulo per fare la domanda? Vai su radio24.it, clicca su Inail per voi e mandaci il tuo quesito. Solo in Citroën, a gennaio, su tutta la gamma, hai lo stesso sconto riservato ai dipendenti. Come Citroën C1 a trazione, con clima e controllo di stabilità in curva da 7.600 euro. Ti aspettiamo nelle migliori concessionarie d'Italia, secondo Interauto News. Anche domenica 27. In banca? Sì, certo. La mia nuova auto la prendo in una filiale del gruppo Carige. E anche il salotto, il televisore, il computer e pure un weekend. Non aspettare! Entra in banca! Misura il finanziamento progettato apposta per te da Creditis per facilitare i tuoi acquisti in tutte le filiali del gruppo Carige. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso filiali banche gruppo Carige. Salvo approvazione di Creditis S.p.A. Info 800 010909 o creditis.it. Interrompiamo i vostri programmi per fare una dichiarazione ai professionisti, ma anche la contabilità, i bilanci, le paghe, la gestione dello studio, l'archiviazione documentale, anche in cloud. Stop! Rifacciamo! Hai dimenticato la conservazione sostitutiva e il portale collaborativo di studio. E come si fa in 30 secondi? Wolters Kluwer Italia le fa tutte le soluzioni software per commercialisti e consulenti del lavoro. E ricordati di dire che sono firmate OSRA e IPSOA. Wolters Kluwer Italia. Quando si è primi, i secondi non bastano mai. software.whi.it. Siamo qui allora alle 7:34 minuti a continuare a leggere i giornali. Oggi è il giorno, alle 20 scade l'orario per la presentazione delle liste ufficiali e dunque finora c'è chi, come nel centro-sinistra, le ha già annunciate, poi sono stati epurati alcuni cosiddetti impresentabili. C'è chi invece fino all'ultimo tratterà. È il caso soprattutto del Popolo della Libertà, perché sono alle prese con quelle che i giornali definiscono delle vere e proprie risse interne, soprattutto su alcuni nomi, i cosiddetti sempre impresentabili, persone che hanno problemi con la giustizia a vario titolo. E si fanno i nomi di Dell'Utri, anche se Dell'Utri ha detto mi tiro indietro. Si fanno i nomi di Scajola, anche se Scajola ha detto io mi tiro indietro, ma oggi ci sono delle sorprese. Il nome però sul quale più si sta litigando, questo secondo i giornali, è quello di Nicola Cosentino, che ha problemi con la giustizia, nel senso che è accusato ed è sotto processo per associazione esterna alla Camorra, e che Berlusconi ieri ha detto in un'intervista, gli abbiamo chiesto un atto di generosità, insomma di farsi da parte, e Nicola Cosentino pare dai giornali non ne ha proprio la minima intenzione. Leggete Repubblica oggi, Carmelo Lopapa a pagina, in prima pagina e poi continua a pagina 3, Nico americano a Silvio, o il seggio o vado in galera, lo capite o no che così finisco in galera? Ma io vi rovino, ritiro i miei uomini, faccio cadere le giunte e vi faccio perdere le elezioni. Questo è un retroscena e quindi è un virgolettato attribuito a Nicola Cosentino, che scrive Carmelo Lopapa è piombato a Palazzo Grazioli, la sede dove risiede Berlusconi a Roma, a fine mattinata, ed è una furia, il capo non c'è, Berlusconi è fuori, sta registrando un'intervista a Sky in cui racconta tra l'altro di aver chiesto a Cosentino di fare un passo indietro, a palazzo c'è Angelino Alfano e c'è colui che il RAS Campano considera il vero artefice insieme al governatore Stefano Caldoro di quella che definisce la trappola ai suoi danni. al che gli dicono in questa ricostruzione di Repubblica: hanno rinunciato Scajola e Dell'Utri, non si capisce perché tu debba essere candidato, non hai visto i sondaggi. Al che sbotta Cosentino: questo sarebbe il partito garantista, io vi rovino, ritiro i miei consiglieri e faccio saltare decine di giunte in campagna, poi vi faccio perdere le elezioni. Lo capite, no, che per darla vinta a quattro giustizialisti io finisco in galera? Questo sarebbe la resa dei conti che in un modo o nell'altro oggi avrà una conclusione. Alle 20 la presentazione delle liste, chi c'è c'è, chi non c'è è fuori, e quindi da lì non si scherzerà più. Tanto che il giornale titola: la svolta nel PDL, passa la linea dura, escluso Chielminino nella giustizia, ma si salva forse solo Cosentino. Ecco, forse potrebbe essere lui l'unico dei nomi, e ci sono appunto Dell'Utri, Papa, Milanese, Scajola stesso, che potrebbe salvarsi, l'unico Cosentino. Anche se Scajola, questo racconta il Secolo XIX, molto attento ovviamente a quello che succede al politico ligure, a pagina 3 promette: attenzione, la partita non è ancora chiusa. Questo il titolo del Secolo XIX, pagina 3. L'ex ministro: la partita non è ancora chiusa, rincuora i suoi, aspettate, aspettate, possono esserci nuove sorprese. Detto che quindi nell'articolo di Marco Menduni si racconta di questa nottata di fibrillazione, giornate ieri di fitte telefonate e poi la nottata ancora di trattative, per poi arrivare alla presentazione delle liste di oggi. Insomma, questo è il tenore, soprattutto la notizia che leggete con maggior risalto sui giornali, la rissa per cercare di trovare un posto in lista. Pare che senza rissa ce l'abbia fatta anche Augusto Minzolini, l'ex direttore del TG1, sarà candidato con il Popolo della Libertà in Liguria. Questo almeno è dato per certo, ma anche qui entro le 20 di oggi si chiarirà tutto. Come invece, sempre notizia che ho trovato e mi ha incuriosito, non si candida più Luciano Moggi, che doveva candidarsi con la formazione di Stefania Craxi, ma ieri ha detto: non mi candido più. Poi quando ci sarà la presentazione delle liste oggi ci sarà sicuramente anche da spulciare e da trovare qualche curiosità. Ho detto che lo scrive anche Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, ma noi lo ripetiamo da giorni sui contenuti anche oggi dei programmi elettorali: zero di zero. No, per la verità c'è un qualcosa sul mercato del lavoro, ma non è che sono programmi, sono indiscrezioni di quella che è l'agenda Monti bis, che è stata presentata ieri ufficialmente con la presentazione della squadra dal Premier a Bergamo, e tra l'altro la promessa anche di riforme radicali, la promessa anche di ridurre le tasse. Non è incoerente dire da parte mia che ridurre le tasse si può. L'attacco duro nei confronti della Lega, la risposta anche a Nichi Vendola che chiedeva un'autocritica a Monti, e Monti ha risposto: autocritica io? Ma scherziamo? Questa è la risposta di Mario Monti, che tra l'altro ieri l'abbiamo fatto sentire anche nell'audio, si è lievemente commosso. Anche Monti si è commosso, la voce un pochino incrinata, lievemente rotta dal pianto, quando ha parlato del quinto nipotino in arrivo e dei nipotini, del tempo che ha sottratto da nonno ai nipotini. Però il tema sicuramente più interessante, e che è stato lanciato anche da Mario Monti e che oggi ha affrontato dai giornali, è proprio quello del tema del lavoro. Allora, sapete che nella squadra di Mario Monti c'è un giuslavorista importante, che è Pietro Ichino, sarà nostro ospite alle 8.30 insieme a Oscar Giannino, perché tutti raccontano di come Pietro Ichino stia mettendo a punto una riforma del mercato del lavoro in favore dei giovani, che sarebbe anche ben più rivoluzionaria della cosiddetta riforma Fornero. Oggi Ichino fa anche un'intervista alla Stampa, intervistato da Tonia Mastrobuoni, racconta: occorre incentivare l'assunzione di lavoratori giovani e di donne con misure di detassazione, orientare i giovani verso posti di lavoro che oggi restano scoperti per mancanza di manodopera qualificata, dunque servizi di orientamento scolastico e professionale che oggi latitano, formazione specificatamente mirata alla domanda espressa dalle imprese. Queste misure saranno oggetto di un grande piano straordinario per l'occupazione giovanile. riguarda la legge Fornero, dice: Ichino ha ripristinato e rafforzato la norma contenuta nella legge Biagi volta a contrastare l'abuso delle collaborazioni autonome. E riguardo all'articolo 18 c'è un allineamento al modello tedesco operato dalla legge Fornero che costituisce già un passo avanti molto rilevante che va difeso e consolidato. Non pensiamo a por mano a una nuova riforma di portata generale, ma ad attivare le imprese che vi siano interessate la sperimentazione di cui parlavo prima, limitata a nuove assunzioni e nuovi insediamenti. Dunque, Pietro Ichino che dice: è pronta una nuova riforma di lavoro. Ieri, per la verità, nel colloquio, se voi l'avete letto, di Ferruccio De Bortoli, direttore del Corriere della Sera, con Mario Monti, quando De Bortoli ha chiesto a Mario Monti sulla questione dell'agenda lavoro, per esempio trasformare tutti i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato e per i quali per i primi 3 anni non venga applicato l'articolo 18, questa potrebbe essere una soluzione. Mario Monti in realtà ha detto, ha glissato, ha risposto con una delle sue frasi: lei mi anticipa cose che io non so, in realtà è tutto allo studio. Effettivamente, se leggete l'Unità, c'è una versione ben diversa dall'intervista che Ichino rilascia alla stampa, perché sull'Unità addirittura la versione è spiazzante: addio alla riforma di Ichino, straniera in ogni patria. Nell'articolo sull'Unità c'è scritto proprio il contrario della annunciata riforma Ichino, e cioè che sul mercato del lavoro è possibile andare più avanti rispetto a quello della strana maggioranza. Così declama il premier uscente Mario Monti, ma in realtà in questo retroscena di Bianca Di Giovanni sull'Unità c'è scritto che alla riunione di mercoledì scorso è piombato sul tavolo degli esperti il fascicolo Ichino, la famosa proposta del contratto unico con libertà di licenziare entro i primi 2 anni, ma la cosa ha reso complessa la situazione. Il fatto è che quella proposta non piace sostanzialmente a nessuno, sia dagli uomini di Alberto Bombassei, è arrivato il niet di Confindustria, Giuliano Cazzola ha ricordato l'opposizione dei sindacati, e gli uomini del premier hanno espresso perplessità per gli effetti che quella proposta avrebbe sulla riforma Fornero. Suonerebbe senz'altro come una smentita della legge appena approvata. Dunque c'è anche un giallo su queste proposte del mercato del lavoro. Ichino le spinge e secondo l'Unità ci sarebbe già il freno da parte non solo di Monti ma anche di tutta la squadra di Monti. Certo, nel momento in cui, anche oggi racconta la stampa, il lavoro è una delle emergenze veramente gravi in Italia, l'emergenza occupazione, a pagina 8 e pagina 9 leggerete 2 pagine sulla stampa dedicate a questo tema. L'Italia del 2013 e i 3 milioni e mezzo di persone senza lavoro. Quest'anno, secondo le previsioni, la disoccupazione arriverà al 12%, altri 2 milioni di lavoratori sono in cassa integrazione, ed ecco perché la emergenza primaria sicuramente in Italia è proprio quella del lavoro. Anche il Corriere dedica con Antonella Baccaro una pagina alle proposte allo studio, prendendo spunto da questa proposta Ichino sul lavoro. Come può cambiare la riforma? L'agenda Monti prevederebbe proprio questo, secondo Ichino: un contratto unico, incentivi a chi assume, giovani e donne. Ma su questo, ecco, c'è il giallo secondo l'Unità. Già su questa agenda 2 dal punto di vista del lavoro di Monti ci sarebbe una frattura all'interno della stessa compagine. Certo, Monti ha detto servono riforme radicali, non ha incassato sicuramente il benestare del Financial Times, anzi il Financial Times ha criticato duramente il premier Mario Monti dicendo: Monti non è l'uomo giusto per guidare l'Italia. L'articolo di Wolfgang Münchau è una netta presa di posizione dell'editorialista economico che già in passato aveva criticato il presidente del Consiglio accusandolo di un eccesso di austerity. Oggi il Corriere della Sera riporta, pagina 6, quello che ha detto il Financial Times, perché ha scritto Münchau: come primo ministro Monti ha promesso riforme e ha finito con alzare le tasse. Il suo governo ha provato a introdurre semplici riforme, ma si sono annacquate nell'insignificanza macroeconomica. Dunque un'accusa da parte del Financial Times. E gli altri? Beh, Berlusconi alle prese con le liste, Bersani replica: io sto con la gente comune, il premier guarda tutti dall'alto. e gli altri, cioè gli altri noi italiani, beh, noi italiani siamo alle prese con l'arrivo del redditometro. Avete paura per il redditometro che arriva? Oggi il Sole 24 Ore fornisce un decalogo antiterrore. E allora avete paura per il redditometro? Oggi sul Sole 24 Ore, dalla tracciabilità ai pagamenti delle bollette, ecco il decalogo che evita le brutte sorprese. Arriva questo redditometro, in realtà parliamoci chiaro, cari italiani, saranno circa 40.000 controlli all'anno, quindi chi vi dirà che saranno controlli a tappeto, tutta l'Italia scandagliata? Sono solo lo 0,1% dei contribuenti italiani, il 40.000. Però c'è chi è terrorizzato, c'è chi ha paura, c'è chi sta tenendo gli scontrini. E allora, calma e sangue freddo, così inizia l'articolo di Nicola Forte e Giovanni Parente sul Sole 24 Ore. Il nuovo redditometro non è ancora partito, ma già sta spaventando molti italiani. Preoccupazione soprattutto da parte anche che questo atteggiamento psicologico possa portare anche a una contrazione dei consumi, cioè che qualcuno non spenda per paura di venire tracciato. In realtà i suggerimenti sono, il primo è questo: non avere paura di spendere, magari spendete tutto con Bancomat, tutte cose tracciabili, tutte cose rintracciabili e che possono essere poi controllate. Certo, i casi frequenti possono essere, non so, i viaggi o i pacchetti vacanze che vengono regalati da familiari e amici. Ecco, come possono essere giustificati, come possono essere tracciati. Magari bisogna trovare un modo così, oppure la questione più complicata è per le bollette. Può capitare che l'utenza sia intestata a un coniuge che ha un minor reddito ma non è fiscalmente a carico, ma le spese siano poi sostenute dal consorte. Per evitare di penalizzare eccessivamente chi guadagna di meno nella ricostruzione del reddito, lasciare una traccia di chi ha eseguito i versamenti diventa utile. Comunque sulle bollette, sulle spese per le colf, sugli acquisti a rate, sulla ricostruzione dei disinvestimenti, sui viaggi pacchetti vacanze, tutti i redditi a disposizione, avete il decalogo oggi sul Sole 24 Ore. Come non farvi terrorizzare dall'arrivo di questo strumento, ma prenderlo nel verso giusto, cioè calma, sangue freddo, e sappiate che inizieranno anche questo tipo di accertamenti ulteriori a partire, credo, da marzo. Detto che la novità, per la quale c'è anche un titolo d'apertura del Messaggero, che non ci saranno controlli sui pensionati. Questa dovrebbe essere una delle prime novità, quindi cari pensionati state tranquilli, non vi vengono neanche a controllare come spendete la vostra lauta pensione, a volte da 400-500 euro al mese. Veniamo alla, no, prima della cronaca ancora di economia, se volete una bella notizia dal Sole 24 Ore. Le regioni, Gianni Trovati ha fatto i calcoli spulciando, e non è neanche facile, sui nei bilanci delle regioni. Le regioni sono indebitate per 130 miliardi di euro. Volete sapere, secondo la classifica pro capite, cioè quanto pesa a cranio per ogni cittadino, a chi è in testa in questa classifica ovviamente negativa? Il Molise, 4.740 euro di passivo per abitante, il passivo totale che pesa sui molisani, 4.740 euro a testa, cari molisani. Davanti al Lazio, cari abitanti del Lazio, 4.005 euro di passivo che vi sta sul groppone. Davanti alla Puglia, al terzo posto, 3.089 euro di passivo che vi si appoggia come una rogna sulle spalle. Ecco, poi la classifica prevede Campania, Basilicata, Piemonte. Chi sta messo meglio è la Lombardia con 517 euro al quindicesimo posto di passivo che vi grava sulle ginocchia, cari lombardi. Allora, per quel che riguarda invece la cronaca, c'è da dire, io sono abbastanza sconvolto. La notizia del giorno, del mese, della settimana, sicuramente del mese forse, e una dell'anno, cioè la fuga di Fabrizio Corona. Qua nessuno che mi aggiornava, io volevo paginate sui giornali. Devo dire che il Messaggero è l'unico giornale che aggiorna un po' sugli ultimi movimenti forse di Fabrizio Corona, per il quale c'è una pena esecutiva credo a 5 anni. Io me lo chiedevo sempre da questi microfoni, ma come mai non è in carcere con tutte le condanne che ha? Ecco, adesso è scattato il carcere, detto che il carcere non si augura a nessuno ovviamente, ma la fuga di Corona, un'auto lo aspettava fuori dalla palestra, sinistra e pare che sia fuggito. Ora viene dato addirittura in Portogallo con 8 milioni di euro nascosti nei sacchi della spazzatura, ma in fuga per il Brasile. Capite che c'è anche un qualcosa di pazzescamente e incredibilmente criminalmente romantico in tutto questo. 8 milioni di euro nei sacchi della spazzatura per Fabrizio Corona in Portogallo. Magari stiamo parlando, magari nascosto in un quartiere a Quarto Giaro, nella Barona, a Milano, però insomma piace crederlo così, in fuga dal mondo, in fuga anche un po' da se stesso. Questo per Fabrizio Corona. Di cronaca, che dire, c'è da segnalare anche la dichiarazione del vice sindaco di Bernareggio, siamo in provincia di Monza e Brianza, dove c'è stato un altro femminicidio, e cioè Mustafa Ashuani, marocchino, ha ucciso la ex moglie Antonia Stanghellini. E il vice sindaco di Bernareggio ha detto questa frase, lo racconta Repubblica pagina 18: se non si vuole finire ammazzati è meglio evitare di farsi una famiglia con un musulmano. Polemiche ovviamente per questa frase, ma il vice sindaco non indietreggia: quello che dico lo penso, credo sia condiviso dal mio partito. Negli ultimi anni Bernareggio è cresciuta a dismisura perché abbiamo permesso a cani e porci di entrare nel nostro paese senza regolamentare nulla. La conseguenza? L'abbassamento della classe sociale, quei risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti. Uccisa dall'ex, coi musulmani finisce così il vice sindaco di Bernareggio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qua, allora sono le 8 e 17 minuti, avete preso nota del numero della nostra segreteria, 02 4652 4492, questo è il numero di telefono se volete mandare messaggi alla segreteria, ovviamente che noi poi pubblicheremo alle 6.30. Alle 8 e 17 minuti vi ricordo che tra poco, dalle 8.30, avremo ospiti il senatore Pietro Ichino, senatore uscente che dopo una legislatura nel Partito Democratico si candida con la lista Monti, e Oscar Giannino che torna ai microfoni Radio 24 come leader di Fare per fermare il declino. Prima però vogliamo iniziare da Raffaele Lombardo, l'ex governatore della Sicilia, che saluto. Buongiorno Lombardo e benvenuto. Buongiorno. Allora Lombardo, la domanda secca è questa: si candida lei o no alle legislative? Questo è già sciolto, come dire, questo nodo. Da un 48 ore circa si sono candidato capolista al Senato. Capolista al Senato, per che partito? Il suo, il Movimento per le Autonomie? Il Movimento per le Autonomie è partito dei siciliani, si chiama così. Senta Lombardo, ce l'avevamo lasciati l'ultima volta che diceva: finisco con la politica, basta, dopo la Sicilia, coltiverò le arance. E che è successo? È vero. Ho gustato il piacere della pensione per qualche mese. Quasi da quando mi sono dimesso il 31 luglio, ho fatto una forte campagna elettorale per le regionali, ma ero entrato in quell'ottica dei idee. Alla fine poi, dopo aver lavorato con la sinistra negli ultimi anni nel mio governo, mi sono reso conto francamente che la sinistra voleva semplicemente annullarci, distruggerci. Siamo stati portati ad un'alleanza che il Cavaliere è tornato ad offrirci. La situazione è abbastanza complicata, qua tra l'altro si gioca uno dei premi di maggioranza più importanti del nostro paese per quanto riguarda gli equilibri al Senato, e quindi sia un mio mondo che deve recuperare spazio e terreno, che chiaramente la posta in palio, mi hanno tra virgolette costretto a scendere in campo. No, non dica anche lei che è stato costretto. Perché costretto, voglio dire? Costretto dagli eventi, costretto dal fatto che in condizioni normali non l'avrei mai fatto. Devo farlo per garantire la sopravvivenza, per dare un contributo alla sopravvivenza di un'esperienza che è iniziata nel 2005, sono passati a stento 8 anni e che certamente oggi corre dei rischi. Ma nel senso, sopravvivenza di che cosa? Del suo movimento politico? Cioè altrimenti... Del mio movimento politico, proprio del mio movimento politico. Del movimento politico. Che il primo rischio lo devo correre io. E quindi ha parlato con Berlusconi, cioè voi siete apparentati in lista, siete in coalizione in Sicilia con il Popolo della Libertà e con il centrodestra. Esattamente, proprio così. Senta, la questione dei cosiddetti, come vengono definiti dalla stampa, impresentabili, lei come la pone? Perché anche lei ha problemi con la giustizia, nel senso che ha da affrontare il processo per associazione esterna alla mafia. Per il quale io ho chiesto il rito abbreviato, dopo che c'è stata un'imputazione coatta che è seguita a più richieste di archiviazione da parte della pubblica accusa. La condizione è questa. Però non si pone il problema della candidabilità, perché sa, c'è tutta la discussione su Dell'Utri che pare faccia un passo indietro, Nicola Cosentino sul quale non si capisce bene oggi che succederà. Cioè lei non si è posto questo problema? Io mi sono posto questo problema, le sto dicendo appunto che per me è una scelta necessitata, le ribadisco, non solo la legge me lo consente, in caso contrario non lo avrei potuto fare, ma arrivo ad un processo per il quale ho chiesto il rito abbreviato, per il quale processo più volte, non la difesa ma la pubblica accusa, avevano chiesto l'assoluzione, 3 volte per essere precisi. Senta, oggi Repubblica scrive che oltre a lei anche Roberto Di Mauro, che è capogruppo all'Assemblea regionale del suo partito, ha una richiesta in via giudizio, e anche Giuseppe Federico, ex presidente della provincia di Caltanissetta, del suo movimento, è indagato per voto di scambio. Federico non è candidato, in quanto a Di Mauro è una richiesta di rinvio a giudizio, ci sarà un'udienza preliminare nella quale si deciderà. D'altronde, veda, fermare la vita politica di una persona che è in corso, tra l'altro guardi, Di Mauro è candidato perché è il capogruppo nostro all'Assemblea regionale siciliana, nel caso in cui venisse eletto e dovesse optare, le posso assicurare che resta là dove è, cioè all'Assemblea regionale siciliana. E cioè quindi prende voti per non andare in Parlamento, mette il nome. Prende voti per rafforzare la lista, potrebbe succedere anche per me. Potrei prendere voti e poi dopo un certo tempo decidere anche di dimettermi e passare la mano. Cioè correre perché il suo nome porta ancora tanti consensi, ma poi chi se ne frega di andare al Senato praticamente. Non è così per niente, lei sa che andare al Senato è ovviamente un grande onore, un grande privilegio per chi che sia, quindi non è un chi se ne frega. Certamente se una vicenda giudiziaria dovesse concludersi male, ciascuno potrebbe assumere la decisione di lasciare il seggio, cosa che io per la verità, ripeto, senza un rinvio a giudizio e con 3 richieste di archiviazione ho già fatto dimettendomi anzitempo da Presidente della Regione. Però mi scusi Lombardo, Berlusconi dice a Dell'Utri chiediamo un atto di generosità, a Cosentino pure, a Papa anche eccetera, e poi invece candida lei, o meglio non candida lei, cioè insomma si apparenta con lei, che invece ha problemi con la giustizia. Non c'è un qualche modo, un qualcosa che stride? Io in tutto questo situazioni giudiziarie degli altri soggetti, ho letto e ho sentito di Dell'Utri e della sua scelta, ma Dell'Utri oltre che essere stato condannato in secondo grado è approdato in Cassazione, che ha rinviato il processo all'appello, dove credo sia stata richiesta una pesante condanna per lui, quindi le situazioni credo che non vadano assolutamente paragonate. Cioè secondo lei è opportuno che Dell'Utri non venga più candidato, anche se non fa parte del suo partito, così da osservatore esterno? Da osservatore esterno non mi pongo neppure il problema, non è stato un problema mio, è stato un problema che si è giocato tra Berlusconi e Dell'Utri. Dal punto di vista del programma, lei qual è il primo punto del programma del vostro partito? Cioè vi candidate, lei si candida al Senato perché? A parte quello che ci ha detto, per salvare l'esperienza politica del suo movimento, ma dal punto di vista del programma per il paese? Coincidono col nome del mio stesso movimento, l'autonomia siciliana, che sta scritta sulla carta, che si chiama Statuto dal 46, ma in gran parte non è attuata. Un'autonomia che se attuata vorrebbe dire, e comunque questo è nella buona sostanza il nostro programma, lavorare perché il divario tra nord e sud si riduca, per quanto mi riguarda si riduca con la Sicilia, e questo vuol dire una fiscalità di vantaggio di cui si è sempre parlato, grandi impegni ma nulla di fatto, la mitica perequazione infrastrutturale che sta anche nella legge sul federalismo fiscale. E poi il discorso delle accise petrolifere, siamo la regione nella quale si raffina più petrolio circa quanto per produrre il 40% della benzina, e da noi paradossalmente la benzina, con tutti i danni che la raffinazione comporta all'ambiente, sì, alla salute, all'aria, al mare, eccetera, costa più cara che in altre parti d'Italia. Per dirle soltanto tre cose. Ma senta, una delle grandi infrastrutture, sì, a proposito di perequazione strutturale, è il ponte sullo stretto di Messina. Che ci vuole, secondo lei? Secondo lei ci vuole? Io mi sono battuto sempre. La prima grande manifestazione che abbiamo fatto con il nostro movimento è stata per la costruzione del ponte. Del ponte, che rimane un punto secondo lei fondamentale. Senta, visto che ha parlato di perequazione, vista da lì, che ne pensa della proposta del governatore forse futuro della Lombardia, Maroni, che corre e dice: noi vorremmo tenerci il 75% delle tasse al nord? Mi hanno fatto i conti, che forse se li tengono già, se si considerano tutte le spese che lo Stato fa per mantenere la sua struttura e le sue strutture in Lombardia. In ogni caso... forse vanno allo Stato, però non ai cittadini. Se la sente Maroni, sobbalza sulla sedia a dire che già si tengono. Si devono mettere d'accordo a chi devono andare. Ma noi, se trattenessimo il 75% delle accise petrolifere, che pesano per circa 10 miliardi di introiti nelle casse dello Stato all'anno, avremmo soltanto da guadagnare. Senta, Raffaele Lombardo, lei come si pone di fronte a tutte le persone alle quali ha detto mi ritiro e adesso invece la vedono candidato? Insomma, e siamo anche nella terra del Gattopardo, quindi sembra un po' tutto cambi perché nulla cambi, no? No, il Gattopardo non c'entra nulla. Le ripeto, a tutto avrei pensato tranne che a dovermi candidare. Lo faccio perché questa esperienza politica che abbiamo avviato, che è costata, come dire, lacrime e sangue a chi ha osato pensarla, rischiava di essere annichilita. Ma hai capito? Ma perché devo candidarmi è un mantra che spesso utilizzano? Perché c'è ragione che indubbiamente in un movimento chi lo ha fondato, chi c'è stato dal primo momento, chi ha acquisito, come dire, un patrimonio di conoscenze, di rapporti, forse anche qualche titolo di riconoscenza per il lavoro che ha fatto, può servire solo ed esclusivamente per questo. Quanto pensa di valere in termini percentuali lei? La legge, lei sa, impone una percentuale minima del 3% e poi ci sono regole che sono strettamente connesse con il premio di maggioranza. Quindi noi lavoriamo ovviamente per raggiungere gli obiettivi che la legge elettorale individua. Nel frattempo c'è anche suo figlio che è stato eletto all'Assemblea regionale, insomma, anche qui. L'ennesima prova che a tutto avrei pensato che tranne che scendere in campo nuovamente. E dice c'era già un figlio e quindi, ma senta, le arance proprio non, come dire, brutto raccolto evidentemente. Non so se è brutto raccolto, purtroppo ci sono state delle gelate nei giorni scorsi. Le arance sono una cultura che probabilmente se non ci organizziamo diversamente, devo dirle sinceramente che io questa esperienza l'ho confrontata con quella degli ultimi anni, almeno gli ultimi 15, forse è una cultura che per qualche verso va cambiata, bisogna desertificare. E poi se lei l'abbandona, voglio dire, se lei dice mi impegno e poi abbandona l'arancetto. Il lavoro diretto non credo che gli faccia un grande danno. Il discorso è che l'accordo tra Europa e Marocco, la liberalizzazione degli scambi, ci pone in una condizione di concorrenza perdente al massimo, perché puoi immaginare il costo di produzione di un chilo di arance nel Nord Africa, considerato il costo della manodopera, con quello della Sicilia, insomma, non è questo il problema, come anche il costo della manodopera in Cina, il costo della manodopera in tutti i settori. Vabbè, io le faccio tanti in bocca al lupo, Raffaele Lombardo, dunque, che si candida, insomma, torna, non ha mai abbandonato di fatto a questo punto la politica, se non per un breve periodo. Grazie per essere stato con noi, ex governatore della Sicilia, e si candida al Senato capolista per il Movimento per le Autonomie, Partito dei Siciliani. 24 mattino. Siamo qui alle 8:33 minuti. Allora, oggi La Stampa racconta come l'emergenza primaria in Italia sia il lavoro. 3,5 milioni di italiani di senza lavoro, con quest'anno la disoccupazione arriverà al 12%. Vi segnalo l'articolo di Paolo Baroni che trovate a pagina 8. Vogliamo parlare un po' di lavoro, economia. con due rappresentanti che si candidano alle politiche, il giuslavorista Pietro Ichino, buongiorno, dopo una legislatura il Partito Democratico ora è candidato con la lista Monti, buongiorno Ichino, e benvenuto a tutti gli ascoltatori e a lei. E saluto anche una voce che gli amici di Radio 24 e gli ascoltatori conoscono benissimo, qui si presenta oggi come candidato premier per fermare il declino, Oscar Giannino, buongiorno Oscar e ben buongiorno Alessandra, buongiorno agli ascoltatori, purtroppo la mia voce è un po' così. Vabbè, la voce è quella, tra l'altro dirò agli ascoltatori, si dà sempre del lei eccetera, ma io con Oscar Giannino per il rapporto professionale e per l'amicizia certamente non riesco a dare del lei. In ogni caso, Pietro Ichino, io vorrei partire proprio da questo, perché ieri Monti ha parlato di riforme strutturali e si è parlato molto anche nell'intervista che il direttore del Corriere della Sera ha fatto al premier Mario Monti del mercato del lavoro. Lei oggi anche sulla stampa in un'intervista dice: bisogna rilanciare il lavoro per i giovani, soprattutto detassando chi assume, e ci dica se è vera questa ipotesi che circola, quella di poter trasformare i contratti a tempo determinato in tempo indeterminato per un periodo di 2 o 3 anni, ma sospendere nel frattempo l'articolo 18 per queste persone. È una proposta concreta? Non è esattamente così. La proposta su cui stiamo lavorando è quella di offrire alle imprese e ai lavoratori un contratto a tempo indeterminato per le nuove assunzioni, caratterizzato da una disciplina molto più flessibile e un minor costo attraverso uno sgravio contributivo. In particolare si può pensare a eliminare, cioè ridurre allo 0,5% quel 3,2% che oggi grava come contributo per la cassa integrazione e ridurre il contributo pensionistico dal 33% al 30%, quindi c'è uno sgravio circa di 6 punti di contribuzione più un incentivo fiscale per il datore di lavoro, e con una disciplina che preveda in sostanza che per i primi 2 anni il contratto a tempo indeterminato può essere risolto con un indennizzo al lavoratore, un mese per anno di anzianità, che opererebbe anche sul contratto a termine e che non si trasforma in contratto a tempo indeterminato, quindi diventerebbe indifferente assumere a termine o a tempo indeterminato per questo primo periodo di 2 anni, e poi dal terzo anno in avanti, se l'impresa deve licenziare per motivi economici e organizzativi, non c'è un controllo giudiziale sul motivo addotto dall'impresa, salvo il controllo contro le discriminazioni e le rappresaglie ovviamente, ma c'è una sostituzione del contratto di lavoro con un contratto di ricollocazione nel quale al lavoratore viene garantita la sicurezza economica e professionale con l'intervento dei servizi di outplacement e con un trattamento complementare di disoccupazione. Le chiedo questo, professor Ichino, però queste proposte sono nella cosiddetta agenda Monti 2? Perché guardi, gli faccio questa domanda perché oggi l'Unità, se lei non l'ha letta ancora, in un retroscena di Bianca Di Giovanni racconta che addio, il titolo, addio alla riforma Ichino, che non piace a nessuno anche all'interno della lista Monti. Io non so dove l'Unità abbia tratto questa notizia, quello che vi sto dicendo è che c'è un gruppo di lavoro di cui fanno parte diverse persone, insieme a me il Marco Simoni, Irene Tinagli, Giuliano Cazzola, Alberto Bombassei, abbiamo già avuto 2 riunioni e diciamo l'orientamento è decisamente nella direzione che ho detto, cioè non come dice il Corriere della Sera oggi contratto unico, ma perché contratto unico significherebbe azzerare l'articolazione delle forme contrattuali che invece hanno una loro funzione molto no, certo, precisa. Ma il contratto come l'ha previsto? Come ce l'ha spiegato lei? Di adattare la disciplina del contratto a tempo indeterminato regolare in modo che possa veramente rispondere a tutte le esigenze e quindi essere lo strumento, per esempio, con cui assorbire quelle centinaia di migliaia di false collaborazioni autonome che la legge Biagi, ripresa dalla legge Fornero, perché la legge Fornero non ha fatto altro che applicare con rigore i criteri fissati dalla legge Biagi per le collaborazioni autonome continuative. Ora queste centinaia di migliaia di rapporti di lavoro non possiamo ributtarli nella simulazione della ma questo è chiaro. Mi faccia sentire Oscar Giannino. Oscar, se vuoi replicare intanto su questo, cioè se questa davvero è una via fattibile, quella sul mercato del lavoro che propone il senatore Ichino all'interno della lista Monti, e poi però ti chiedo anche che ne pensi del Financial Times che ha ieri certificato e ha detto in un commento, ovviamente uno dei suoi massimi autori, che Monti in realtà non è, secondo il Financial Times, l'uomo giusto per guidare l'Italia nel futuro. Oscar. Allora, prima cosa, comunicazione di servizio, per così dire. Siccome siamo su Radio 24 e Radio 24 ha sempre seguito le vicende, i problemi degli imprenditori e di chi abita nei comuni colpiti dal sisma in Emilia, ieri sono stato a San Felice sul Panaro e mi permetto di dire a tutti coloro che sono in ascolto che ieri sono finiti purtroppo le scorte dell'ufficio di emergenza che distribuiva alla popolazione coperte, viveri di prima necessità per le famiglie che solo da 20 giorni sono nelle unità abitative molto piccole, molto attaccate l'una all'altra, e il mio appello è a Vasco Errani, al commissario straordinario, perché in qualche modo vengano rifornite, perché c'è ancora molto molto bisogno, e so perfettamente che Radio 24 e i colleghi torneranno a occuparsi di questi problemi. Allora, primo, sulla riforma del lavoro, io mi limito a dire con una punta di sarcastica soddisfazione che l'agenda Monti, come ho detto fin dal primo giorno, è un cantiere in evoluzione, un numero non c'era, si stanno riunendo, vedremo, capiremo dopo le elezioni, come sempre capiremo che cosa vogliono fare, e lo dico con stima profonda verso Pietro Ichino, le sue proposte, le altre persone che compongono il gruppo di lavoro, ma il punto resta che Monti un numero e le cose che vuole fare non ce le dice. Si è pentito del redditometro dopo averlo fatto, si è pentito dell'IMU dopo averlo fatto, la riforma del mercato del lavoro ce la diranno dopo, insieme vecchia politica, punto. Ergo, io sono d'accordo con quello che ha scritto Wolfgang Munchau sul Financial Times, è un giudizio insomma di un certo peso, ha detto che il suo modesto giudizio è che non sia l'uomo giusto, perché ha fatto riforme molto annacquate, anche dal Parlamento, molto annacquate dal Parlamento, dalla maggioranza eterogenea, che hanno sfiorato i limiti dell'irrilevanza, c'è scritto così, e da questo punto di vista, insomma, non è proprio il meglio che si potesse immaginare. Che cosa voglio dire? Non è che nessuno mette in dubbio l'autorevolezza e il prestigio che è tornato per l'Italia sui mercati internazionali, e la paura che torna adesso sui mercati internazionali per un voto che potrebbe avere di nuovo instabilità. Certo, però, la chiarezza non fa parte di questa agenda, e i metodi di questa offerta politica, da cui sono rimaste fuori molte personalità di primario rilievo, non dico solo fermare il declino, ma questo sono, è una cosa marginale, ma molte altre di grande peso, ecco, secondo me testimonia che è un'offerta politica congegnata molto male. Quindi io sono d'accordo, cioè, con un'offerta di vecchia politica, dici Oscar? E secondo me è un'operazione Mastella al cubo, e lo dico sapendo che Mastella è un tizio molto serve solo a evitare il premio di maggioranza al PD, mentre bisogna fare un grande appello per lasciare la seconda repubblica alle spalle, e con molta più gente di molte più ispirazioni diverse, un programma chiaro, numeri precisi, impegni non così ancora in cantiere, impegni precisi. Ecco, su questo se, Ichino, l'accusa è di effettivamente di un'agenda vuota, cioè un'agenda di grandi promesse. Ma cosa c'è di più preciso in una agenda che dire vogliamo coniugare il massimo possibile di flessibilità per le strutture produttive con il massimo possibile di sicurezza economica e professionale per il lavoratore, sicurezza che evidentemente non vogliamo costruire sull'ingessatura del rapporto di lavoro, ma sulla sicurezza nel mercato del lavoro, nel passaggio dal vecchio al nuovo posto di lavoro. di questo stiamo discutendo i dettagli, ma la struttura fondamentale dell'intervento di politica del lavoro della lista che propone la lista Monti è esattamente questo, quindi semplificare, codice del lavoro semplificato, 59 articoli che sostituiscono 2000 pagine di legislazione del lavoro che oggi è praticamente illeggibile anche per gli addetti ai lavori, e queste sono cose molto precise, e il codice del lavoro è lì a disposizione, può essere stato controllato e discusso in centinaia di incontri in tutta Italia, ma la lista Monti la nuova formazione che si aggrega intorno a Monti ha fatto proprio questa scelta e l'ha fatta in funzione anche di un'altra scelta importantissima: aprire l'Italia agli investimenti però, stranieri. Però professore, lei come giudica il giudizio del Financial Times, come lo vede dunque? Un giudizio impietoso, sbagliato? Sui giornali internazionali possiamo leggere tante cose, come in molti modi si può leggere le riforme che sono state fatte da Monti, dal governo Monti, ma per quel che riguarda in particolare la riforma del lavoro, la riforma Fornero, quella sulle pensioni è una riforma epocale fatta nel segno dell'interesse delle nuove generazioni. Noi stavamo fino al 2011 mandando in pensione i cinquantenni a spese dei ventenni di oggi. È stata una riforma fondamentalmente ispirata all'equità intergenerazionale, e non è stata affatto, non è stata annacquata, insomma, non dice è stata Oscar annacquata. Qui Chino dice che non è stata annacquata, non è stata annacquata, è stata implementata. Sono stati salvaguardati tutti coloro che sarebbero andati in pensione nel 2013-2014, per quelli che avrebbero dovuto andare in pensione nel 2015 o 2016 e che resteranno, nonostante gli incentivi per il reinserimento del tessuto produttivo, resteranno senza pensione e senza lavoro, abbiamo i cosiddetti esodati. I cosiddetti esodati. Allora mi faccia professore, Chino abbia pazienza, nell'agenda Monti prima versione non si diceva che si sposavano le sue proposte, che quelle sì sono conosciute e apprezzate da anni. Nell'agenda Monti il paragrafo che diceva noi sposiamo la riforma Echino sul codice del lavoro non c'è scritto. Uno. Due. La riforma del mercato del lavoro, per quello che riguarda invece non le pensioni, sulle quali sono d'accordo tranne gli esodati, ma per le il mercato del lavoro, l'ingresso con le forme diverse da contratti da tempo determinato è stato un errore, lo ha ammesso la stessa Fornero mesi dopo l'approvazione. Quello non è neanche un annacquamento al Parlamento, è stata proprio sbagliata nella concezione, perché aggravare di costi aggiuntivi, procedure aggiuntive e controlli le forme di contratto diverse dal tempo determinato in entrata, cioè quelle che usano di più le piccole imprese, nelle quali difficoltà dell'impresa produce con certezza, e lo ha ammesso lo stesso ministro Fornero, disoccupazione aggiuntiva. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando, se vogliamo essere oggettivi, di un percorso che è stato difficile per il governo Monti, pieno di errori e anche di strattoni dati dalla maggioranza, che però adesso, se si presenta agli italiani con una veste di offerta politica diversa da quella di essere supra partes, doveva essere preciso al millimetro nei numeri. Allora, noi che saremo solo alcuni dei economisti italiani che insegnano all'estero stando in Italia, abbiamo in due cartelline messo numeri precisi su come si tagliano le tasse, la spesa e il debito. Tutto lì. Il problema è che i numeri rifuggono dalla vecchia politica che apre cantieri, apre agende, cambia idea, cambia giudizio, e ogni volta non si riesce mai a chiappare da dov'è, perché naturalmente dice sempre noi stiamo, noi faremo, vedremo. Ecco. Siamo con Oscar Giannino, fare per fermare il declino, e Pietro Ichino della lista Monti. Oscar, no, prima della questione del debito pubblico, oggi si chiudono le liste, tu sarai candidato premier, immagino, per la formazione delle liste, candidato premier in varie regioni anche? Sì, sono candidato capolista e secondo questa legge elettorale ridicola, quindi divento anche automaticamente candidato premier. Sì. Il debito pubblico, abbiamo visto che è 2.000 miliardi ben superati, come in tre mosse, come lo faresti abbattere? La nostra posizione è chiara, questi livelli di pressione fiscale che continua a salire mentre anche il debito cresce, perché facendo crescere la pressione fiscale a questi livelli la perdita di prodotto è una conseguenza inevitabile, noi indichiamo una strada alternativa. Bisogna istituire una patrimoniale, risposta sì, chi la deve pagare? Lo Stato, siccome nel suo controllo tra beni immobiliari, 480 miliardi di mattoni liberi stimati sul portale del Tesoro, non lo dico io, società partecipate e controllate a livello centrale come a livello locale, e concessioni, c'è di che largamente eccedere rispetto all'obiettivo. Qual è l'obiettivo? 25 punti di PIL di debito pubblico in meno in 5 anni, e noi indichiamo per ogni singola classe, a cominciare dai mattoni e dalle società, quanto deve essere l'apporto di queste dismissioni in 5 anni. L'obiezione secondo la quale non si può fare è la classica obiezione della Ragioneria Generale dello Stato, di tutti coloro che dicono che lo Stato non deve mai cedere nulla, e la nostra obiezione, contro obiezione invece, è che esistono strumenti messi a posto nella prassi internazionale, praticati da altri paesi in difficoltà, in condizioni analoghe al nostro paese nei 25 anni alle nostre spalle, in cui questo è puntualmente avvenuto. Si tratta di volerlo fare, non di credere che sia impossibile. Quindi vendita del patrimonio dello Stato. Su questo, professor Ichino, lei cosa ne pensa? La patrimoniale allo Stato? Siamo pienamente d'accordo sul punto che la parte del patrimonio pubblico male o per nulla utilizzata vada dismessa o utilizzata meglio, ma c'è un largo spazio per dismissioni che potrebbero contribuire notevolmente alla riduzione del debito pubblico. Quello che contestiamo a Giannino è che una vendita di 100 miliardi l'anno rischia di essere una svendita a prezzi inferiori al 50% del prezzo reale, e questo non sarebbe un buon servizio al paese, agli italiani. Cioè sarebbe svendere, per questo, vorrebbe dire svendere, non vendere. Siccome tutto il programma di Giannino è costruito sulla fattibilità di una vendita molto accelerata, e le vendite molto accelerate sono svendite, e noi diciamo meglio coniugare questa, che sicuramente è una delle leve su cui agire, con altre leve, in particolare la riduzione della spesa pubblica. Come riduzione della spesa pubblica? Beh, con una applicazione molto rigorosa dell'articolo 21 del testo unico del Però, senatore, mi permetta, si sente da troppo tempo. Cioè, perché gli italiani dovrebbero credere ridurre la spesa pubblica? È un mantra che sentiamo da quanti anni, decenni? Veramente ha cominciato a parlarne il governo Monti parlando di spending review in questo ultimo anno, nel 2012, e se guardate le cifre ha cominciato a farlo, perché mentre nell'arco degli 8 anni precedenti di governo Berlusconi-Tremonti la spesa pubblica è cresciuta di 270 miliardi, nel corso del 2012, anno in cui c'è stato un enorme aumento della spesa per gli ammortizzatori sociali, la spesa pubblica è aumentata soltanto di 6 Quindi, miliardi. Oscar dice, il deficit si è ridotto. La spending review può essere una strada percorribile. Certo che può essere, a condizione che si responsabilizzino i dirigenti pubblici su obiettivi molto precisi e misurabili, che è proprio lo strumento con cui bisogna cambiare profondamente l'amministrazione. Ma è davvero stata così efficace, secondo te, Oscar Giannino, la spending review montiana? Primo, per rispetto di numeri, 5 punti di PIL di dismissioni l'anno sono 75 miliardi e non 100, mi dispiace professor Ichino. Secondo, la differenza nei tagli di spesa, che sono stati solo timidamente iniziati e che fino a questo momento, con Tremonti e con Monti, i tagli di spesa sono andati sempre irreparabilmente a copertura di nuova spesa. La differenza è che se procediamo con massicce dismissioni pubbliche sul conto economico annuale, cioè spesa e tasse, noi possiamo prendere l'impegno con gli italiani di dire: per ogni euro tagliato, i 5 sesti dell'euro tagliato vanno in minori imposte a impresa e lavoro. Se non si mette questa concatenazione immediata, questo impegno a retrocedere in meno imposte sul lavoro e imprese e tagli di spesa, continueremo a fare tagli di spesa a parole che vanno a copertura di nuova spesa, e quindi la spesa continuerà poi in realtà a non diminuire, ergo non si taglieranno mai le imposte. Questo è il cambio di marcia che va innestato, altrimenti le promesse non quantificate neanche nell'agenda Monti di diminuzione delle imposte sul lavoro e impresa, per noi si comincia dall'IRAP, questa imposta che si paga anche quando le imprese sono in perdita, che colpisce chi dà più lavoro, non avverranno mai. Questo cambio di marcia l'ha messo per iscritto, bisogna impegnarsi con gli elettori a dire: lo faccio, Totti il primo anno, tutto il secondo, tutto il terzo. Cioè più numeri vorresti rispetto alle promesse, ecco. Questa è la differenza tra quello che abbiamo visto in 18 anni, tra chi come Berlusconi prometteva sempre meno spesa, meno tasse e faceva l'opposto, e devo dire atteggiamento seguito dalla sinistra, anche se non si impegnava naturalmente a tagliare le imposte, e la auspicato cambio di marcia di un nuovo tipo di ciclo politico che però ricrei obiettivamente con meno imposte la condizione per tornare a crescere e per non proseguire nella strage di imprese e di lavoro. Il cambio non è un cambio, per così dire, demagogico, è un cambio concreto. In assenza di questo, come il 40% degli italiani che nei sondaggi ancora non ha le idee chiare potrebbe davvero fidarsi di qualcuno se non vede questo elementare cambio di attitudine nei confronti degli impegni presi con l'elettorato? Allora, una banale domanda. Io ho un minuto, quindi non ho tempo, se no poi dopo sai che Oscar qua funziona Radio 24 che si sfuma e quindi, però ho una brevissima domanda. Tu alla fine andrete da soli, fare per fermare il declino sarà da soli, non sarà apparentato con nessuno. Questo è questo, quanto potrete pagare in termini di sondaggi, in termini di percentuali? Tantissimo, è molto difficile. Ho respinto però le offerte che mi sono arrivate fino all'ultimo secondo, a me e a quattro amici, di accettare seggi lasciando indietro il nostro programma e il nostro simbolo, non perché per attitudine solitaria, né perché sia inconsapevole delle difficoltà, ma semplicemente perché un cambio di marcia radicale è anteporre obiettivi e principi chiari a qualche seggio in cambio di entrare in Parlamento. Credo che anche questa sia una differenza di fondo. Quando mi hanno beccato in un candidato di cui ero inconsapevole di una condanna, in cinque minuti ho ringraziato il giornale che me l'ha segnalato e non è più candidato. Dato, mentre invece vedo che da altre parti non è così. Sono elementari cambi di marcia, su credibilità costruito sulla credibilità. Sulla incandidabilità oggi sarà un giorno bollente e rovente. Vi ringrazio, Pietro Ichino, candidato con Monti, e Oscar Giannino, fare per fermare il declino. Ci fermiamo qui, seguiteci da domani alle 6.30 se vorrete, siamo sempre qui noi. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.